Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini incrociati si racconta una storia di conversioni. I protagonisti di questa vicenda sono passati nel corso delle rispettive carriere attraverso una serie di esperienze eterogenee e sentimenti contrastanti. Hanno vissuto la disillusione e la consapevolezza, lo sconforto e l'esaltazione, la prostrazione e l'entusiasmo. C'è stato un momento nelle vite di queste persone in cui è stato necessario imprimere una svolta, cambiare decisamente rotta. Nel momento più duro, un amico risolleva l'altro dal baratro in cui si è cacciato. È così che si riconoscono i veri protagonisti. Quando giunge l'ora cruciale, non si tirano mai indietro. Il termine conversione ha un'origine nobile. Deriva dal latino convertere, che letteralmente significa volgere, orientare secondo una nuova direzione. In senso figurato, l'atto del convertire indica un profondo mutamento, un rivolgimento interiore che stravolge completamente la vita di un individuo, portandolo a far crollare le certezze che fino a quel momento avevano sorretto il suo agire. Ma quali sono le motivazioni che spingono una persona a intraprendere un simile percorso? Nel caso di uno dei nostri protagonisti, il punto di svolta è rappresentato da un film. Eravamo alla nostra prima riunione, in un posto in mezzo al nulla, in California, seduti in un bar. Una donna francese sbuca dal nulla, si avvicina e dice: «Vorrei dire una cosa, ma non so, posso dirla?» Noi la incoraggiamo e lei se ne esce con: «Gesù vi ama». Potevo dirlo? Noi restiamo impietriti. È stato un segno. Lei non aveva idea di cosa noi stessimo discutendo. C'erano piccoli segnali dappertutto. La voce che avete appena sentito appartiene a un celebre volto hollywoodiano. Il suo nome è Mel Gibson. Mel Gibson. Ed è il nostro primo protagonista di oggi. Quel mattino di un'estate del 2002, Gibson sta facendo colazione insieme a coloro che, di lì a poco, diventeranno i membri del team produttivo di uno dei film più controversi della storia del cinema. L'idea di produrre e girare questa pellicola occupa i suoi pensieri già da qualche tempo. Per Gibson non si tratta di un semplice film. Ne ha girati tanti nel corso di quasi 25 anni di carriera. Stavolta, però, è diverso. Questa esperienza va al di là della pura e semplice resa cinematografica. I segnali sono sparsi ovunque. La vita di Gibson ha bisogno di una svolta. Il film si intitolerà La Passione di Cristo. La lingua che avete appena sentito è l'antico aramaico. Gibson ha deciso di girare il film nel pieno rispetto filologico delle consuetudini del primo secolo d.C. La sua è certamente una scelta difficile, che con tutta probabilità spiazzerà le platee di tutto il mondo. Ma la difficoltà di sicuro non lo spaventa. Ha pensato questo film per uno scopo intimo. Le ragioni che l'hanno mosso a intraprendere un percorso così duro, così distante dai suoi esordi cinematografici, sono nobili e profonde. Il suo è un cammino interiore di conversione spirituale. È stato un mio percorso di meditazione personale. Mi sono concentrato sulla passione perché l'ho trovata terapeutica. La maggior parte di noi arriva ad un punto nella vita in cui ha addosso le ferite delle cose che gli sono successe, dei propri errori e di quelli altrui. Io sono stato ferito nella vita. Allora ho usato le ferite di Gesù Cristo per guarire le mie. Ed ha funzionato. Mel Gibson usa la passione di Cristo come pretesto per ripercorrere una vita e una carriera fatte di esperienze spesso contrastanti, di alti e bassi, di grosse difficoltà personali e alti riconoscimenti pubblici. Come è arrivato a questo punto del suo percorso? Cosa lo ha spinto a decidere di cambiare rotta? Per scoprirlo, occorre fare un passo indietro. Siamo dall'altra parte del globo, in Australia. Gli anni 70 sono agli sgoccioli e il mondo sta per essere travolto dalla frenetica, disordinata tempesta postmoderna degli anni 80. L'Australia è una sorta di mondo a sé. Relativamente lontana dal clima culturale dell'Occidente, strettamente inteso, la realtà australiana è un curioso miscuglio di influenze anglosassoni e genio locale. Un esempio perfetto di questo mix è rappresentato dagli AC/DC, band di riferimento della scena hard rock mondiale, formatasi nel 1973 nella capitale Sydney. Il suolo australiano non si rivela un terreno fertile solo in ambito musicale. Nel 1979 esce nelle sale Interceptor, coraggiosa pellicola girata nei pressi di Melbourne con pochi soldi e molte idee. Il regista George Miller ha un passato come medico del pronto soccorso e ama intrecciare l'esperienza conquistata sul campo con il ritratto di uno scenario da medioevo prossimo venturo. In Interceptor l'azione si mescola alla fantascienza e la realtà all'apocalisse. Il volto scelto per impersonare l'intrepido tutore dell'ordine Mad Max è quello di un giovanissimo interprete, semi sconosciuto alle platee australiane e ancor meno a quelle mondiali. Si tratta proprio di Mel Gibson. L'attore, all'epoca 23enne, ha preso parte a qualche piccola produzione per la televisione. Il successo improvvisamente arriva grazie a un film girato dietro casa sua, con un budget di soli $400,000. Nato con il volante in mano! Tra il 1979 e i primi anni 80, Interceptor incassa complessivamente oltre $100 milioni, stabilendo un record senza precedenti in fatto di rapporto costi-ricavi in ambito cinematografico. Per Gibson il successo è travolgente. Non solo viene riconfermato per il ruolo di Mad Max nel seguito dell'omonima saga, ma viene scelto da un regista impegnato come Peter Weir per interpretare due ruoli difficili: quello di un giovane soldato nel drammatico Gli anni spezzati e quello di giornalista in Un anno vissuto pericolosamente, accanto a Sigourney Weaver. Identificazione, Guy Hamilton da Jakarta. Introduzione all'articolo. Intervista esclusiva con il capo del Partito Comunista Indonesiano. Il pezzo inizia fra 5 secondi. Siamo negli anni 80. Sembra che in Australia sia il momento storico ideale per scegliere di vivere pericolosamente. Sono molti infatti i talenti locali che decidono di intraprendere la rischiosa strada del successo e mettere le loro capacità al servizio dell'immensa macchina produttiva hollywoodiana. Il regista Peter Weir nel 1985 dirige la star Harrison Ford nel thriller Il Testimone. Nel 1989 Philip Noyce porta sugli schermi l'inquietante Ore 10 Calma Piatta, pellicola che lancia sugli schermi mondiali una ragazza cresciuta a Sydney. Il suo nome è Nicole Kidman. Ai talenti australiani, insomma, gli immensi spazi di quel continente stanno stretti. La carriera di Mel Gibson dopo Interceptor è letteralmente esplosa. È stato catapultato dalle praterie australiane alla rutilante Hollywood. Inizia a frequentare il mondo del cinema, partecipa alle feste, va nei locali alla moda. L'ambiente dello spettacolo, si sa, è una fucina di tentazioni irresistibili e Mel è ancora troppo giovane per opporre una strenua resistenza. Quando sei giovane, c'è tanta gente che ti sta intorno e ti propone nuove esperienze. È come il diavolo che bussa alla tua porta. E tu cosa fai? Gli dici no? Penso che avrei anche potuto. Ma non ero quel tipo di persona. È una cosa che è lì, dentro ognuno di noi, specialmente quando si ha 20 anni. Hai così tanta energia. Avevo un'energia pazzesca a quell'età. Dovevano sedarmi con qualunque sostanza. Ma forse suona come una scusa, ma è così. Gibson ha un problema con l'abuso di alcolici. Il suo primo arresto per guida in stato di ebbrezza risale al 1984. Ne seguiranno altri, a dimostrazione che il vizio di Gibson è difficile da estirpare. A Hollywood, tuttavia, Gibson si distingue non per i pettegolezzi sulle sue abitudini autodistruttive, ma per la serietà come professionista. È il regista Richard Donner che nel 1987 lo dirige in Arma letale a intervenire sull'argomento. Sono rimasto sconvolto quando ho saputo che Mel riusciva a scolarsi 5 pinte di birra a colazione. Sul set è sempre stato puntuale, professionale. Niente da ridire al riguardo. Fu un vero shock per me. Per Gibson, Arma letale rappresenta il debutto in una grossa produzione hollywoodiana. Mel veste i panni del folle, esuberante poliziotto Martin Riggs. Il ruolo gli calza a pennello. Ecco, prendi la mia pistola. Ma non stare lì a baciartela, premi il grilletto. Coraggio, bello, non fare complimenti. Coraggio se fai sul serio. Non devi tentarmi, bello. Gibson, come il personaggio che interpreta, è vittima di atteggiamenti pericolosi e autolesionisti. La giovane età e il rapido successo hanno portato l'attore ad assumere comportamenti spesso incontrollati. Vive pericolosamente e a tutta velocità, incurante delle conseguenze delle sue azioni. Il momento della svolta, della presa di coscienza dei rischi che sta correndo, è lontano anni luce. Il successo incredibile di Arma letale dà un'ulteriore sferzata alla carriera di Gibson. Come già avvenuto con Interceptor, al primo episodio ne segue un secondo a soli 2 anni di distanza. Il mix frenetico di azione e comicità che caratterizza Arma letale è una formula chiaramente vincente ed è corroborata dall'aggiunta di un personaggio spalla che sarà il compagno di sventure di Gibson per l'intera durata della serie, il sergente Roger Murtaugh, interpretato da Danny Glover. Murtaugh è un poliziotto, un collega, un amico, proprio quello che ci vuole per il personaggio interpretato da Gibson. Mai come ora l'attore avrebbe bisogno di una simile spalla anche nella realtà. Ma adesso non ha tempo di badare troppo all'importanza dei rapporti umani. È totalmente concentrato sulla carriera. Il 1990 è l'anno di Air America, un film trascurabile nella carriera cinematografica di Gibson, ma importante sul piano personale. È proprio su questo set che Mel fa uno degli incontri più significativi della sua vita. Ma è ancora troppo presto per scoprire di chi si tratta. Gibson, nel 1990, ha ben altro a cui pensare. La sua mente è occupata da un'idea fissa. Tutte le sue energie non possono convogliarsi nel semplice mestiere d'attore. Ha in mente qualcosa di più grande, qualcosa che gli farà fare un ulteriore passo sul cammino di conversione, cui è immancabilmente destinato. All right, here we go now. Action! Gibson nel 1993 fa il grande salto, passa dietro alla macchina da presa. Il primo esperimento si intitola L'uomo senza volto. Il film non ha successo, ma Gibson ha intenzione di perseverare nel suo scopo. Ha vissuto anni difficili in cui miracolosamente le conseguenze delle sue tribolazioni personali non si sono ripercosse sul suo lavoro. Ma le ferite interiori sono dure da guarire. Sapevo di avere delle cattive abitudini. Volevo liberarmene, capito? A volte basta il tempo per farlo, ma non sempre. Mel sceglie di curare i suoi graffi attraverso il cinema. Vuole dirigere e interpretare un altro film nella convinzione che gli effetti combinati del lavoro dietro e davanti alla macchina da presa siano estremamente positivi, addirittura terapeutici. Il 1995 è l'anno della sua seconda prova da regista, è l'anno di Braveheart, cuore impavido. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi? Per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita. Ma non ci toglieranno mai la libertà! La conquista della libertà per Mel, un po' come accade al personaggio che interpreta, passa attraverso un lungo percorso di acquisizione della fiducia in se stessi e nelle proprie forze. Il campo di battaglia per Mel è il cinema. È da qui che trae l'energia necessaria per sbaragliare le sue debolezze. Gibson crede fermamente in quello che fa e i risultati non tardano ad arrivare. And the Oscar goes to Mel Gibson for Braveheart. Gibson conquista l'Academy e ha soddisfatto la sua sete di crescita personale. Negli anni a venire, i produttori e gli addetti ai lavori di Hollywood gli spalancano tutte le porte, convinti che il successo di Braveheart sia foriero di molte altre performance straordinarie. Ma Gibson ha in mente un'altra idea, più personale e grandiosa, che richiederà molto tempo e molta dedizione. Il progetto che sogna a coronamento del suo percorso di maturazione interiore è la passione di Cristo. Gibson vuole fare un film crudo che spiazzi le platee e spalanchi le coscienze. Ho voluto mettere in risalto la realtà della storia, in modo che non sembrasse una favola. Volevo fosse vera come penso che sia stata e sia. Mel vuole che tutto sia perfetto fin nei minimi dettagli. Per la scelta della location, lui e la sua troupe girano in lungo e in largo i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dal Marocco alla Turchia, in cerca dell'ambientazione ideale. Inaspettatamente Gibson scova il set dei suoi sogni in una sperduta provincia italiana, Matera. Anche la scelta dell'attore protagonista, giustamente, lo impensierisce. Non vuole un volto noto, ma un volto significativo. L'attore Jim Caviezel, sconosciuto ai più, fa decisamente al caso suo. Quando ho interpretato il personaggio di Gesù, le persone hanno iniziato a venirmi incontro e chiamarmi Gesù e mi si inginocchiavano davanti. È stato strano. Io dicevo, non sono Gesù, sto solo interpretando un ruolo, ma loro non vedevano la differenza. Io ho fatto tutto quello che faccio di solito nel mio mestiere di attore, ovvero trattare il personaggio semplicemente come tale. Ma più il tempo passava, più era difficile comportarmi come se quello fosse solo uno dei tanti ruoli. L'immedesimazione nel personaggio è proprio quello che Gibson cerca, non solo da parte dell'attore, ma anche dello spettatore. Per il regista, la vicenda raccontata in questo film ha un respiro di verità universale. Voglio che la gente capisca quel che c'è di vero in questa storia. Voglio che si sentano coinvolti in un'esperienza, che provino emozioni. Per la gente rappresenta la storia perfetta, definitiva di un eroe. Un uomo ha sofferto ed è morto, ma alla fine ha vinto comunque. Mel Gibson percepisce la forza intrinseca della vicenda narrata nei Vangeli e vorrebbe che il suo messaggio servisse di insegnamento non solo a se stesso, ma a milioni di spettatori, a milioni di persone in tutto il mondo. Ancora non sa che la sua idea e il suo percorso di conversione serviranno in particolare a un uomo, a un amico, in un momento di estrema difficoltà. Quest'uomo è il nostro secondo protagonista di oggi. Tra poco, a Destini Incrociati. Somebody somewhere, in the heat of the night, looking pretty dangerous, running out of patience. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati è Hollywood. Mel Gibson è uno dei pilastri dello Star System, un mondo scintillante fatto di gloria ma anche di dannazione. Mel è riuscito a sopravvivere incanalando tutte le sue energie nel cinema, dividendosi tra la recitazione e la regia. Il nostro secondo personaggio, invece, fatica ad evitare le insidie che accompagnano la fama e la ricchezza. Anche lui è un attore e, come Gibson, dimora nell'accecante luccichio hollywoodiano. Il suo nome è Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. I primi passi della carriera di Robert Downey Jr. suonano come un infausto presagio. Dopo qualche partecipazione al celebre show televisivo Saturday Night Live, nel 1987 l'attore recita in Al di là di tutti i limiti, pellicola tratta dal romanzo d'esordio del controverso scrittore Bret Easton Ellis. Downey interpreta Julian, un giovane affettivamente incapace e pericolosamente propenso a esperienze estreme, soprattutto in materia di sostanze stupefacenti. La locandina del film dipinge uno scenario che somiglia paurosamente alla realtà. Quando sei giovane e ricco a Beverly Hills, il divertimento può durare tutta la notte. La notte può durare tutto il giorno. E le conseguenze possono durare una vita intera. Sono appena iniziati gli anni 90, l'ultimo ruggente decennio del secolo breve. Downey conosce Gibson sul set di Air America. I due diventano amici, ma Robert non ha ancora idea dell'importanza che questo incontro avrà nella sua vita. L'unica cosa che conta adesso è viverla in totale libertà, senza freni di alcun genere. E ora passiamo il nostro occhio nel cielo per il rapporto sul traffico con il nostro pilota Billy Covington. Billy, come vanno le cose là? Beh, in questo caso devo dire che la musica parla per me, Stevie. Tutto quello che voglio è solo essere libero. vivere la mia vita come mi pare e piace. Downey sembra inarrestabile. Si mette alla prova in ruoli complessi, come quello di Charlie Chaplin nel film sulla vita del grande regista. Per il ruolo di Charlot ottiene addirittura la sua prima nomination all'Oscar. Ha 27 anni e potrebbe avere Hollywood ai suoi piedi se lo volesse. Ma purtroppo ha imboccato una spirale vorticosa e discendente. Quando sei completamente fatto e sei in fase di negazione, cosa fai? Fai l'unica cosa che ti riesce. Neghi spudoratamente e ti fai. Diversamente da quanto accade all'amico Mel Gibson, la credibilità di Robert Downey Jr. nell'ambiente cinematografico crolla ancor prima di consolidarsi. Le chiamate dei produttori si fanno sempre più sporadiche e i ruoli proposti sono sempre meno importanti. Come se non bastasse, nel 1996 iniziano i guai con la legge. In aprile viene fermato per eccesso di velocità da una pattuglia in Sunset Boulevard, a Los Angeles. Viene trovato in possesso di sostanze illegali, immediatamente arrestato e poi rilasciato sulla parola. L'episodio rappresenta una svolta negativa per Downey. Da questo momento e per un bel pezzo, la sua vita diventa un incessante susseguirsi di bravate, arresti, processi e promesse non mantenute. Nel 1999 si rassegna a scontare una condanna a un anno di reclusione in un penitenziario californiano. Il carcere è una cosa difficile da spiegare. Mi ha fatto aprire gli occhi su molte cose. All'inizio è stato uno shock. Per qualche motivo credevo di andare in una specie di centro riabilitativo o cose del genere. E invece era proprio una prigione, con il filo spinato e la polizia penitenziaria armata, il cui compito in sostanza è proteggere la società da gente come te. È un bel colpo all'autostima. La prigione è un'esperienza dura. Un anno di vita spartana in carcere dovrebbe bastare a Downey come deterrente per le sue bravate. Ma l'attore è ancora preda delle sue enormi debolezze. Il tempo della conversione non è ancora maturo. Nell'estate del 2000 Downey finisce di scontare la sua pena. All'uscita dal carcere lo aspettano i flash dei fotografi e i pettegolezzi di milioni di americani curiosi. L'intera vicenda giudiziaria di Downey è stata minuziosamente riportata da giornali e televisioni, generando un curioso meccanismo. I deprecabili comportamenti dell'attore, sbattuti in prima pagina e in prima serata, attraggono il pubblico come carta moschicida. I network televisivi non possono farsi sfuggire una simile occasione. La più svelta ad accaparrarsela è la Fox. Quella che avete appena ascoltato è la sigla di Ally McBeal, popolarissima serie in onda sulla Fox a partire dal 97. Alla fine della terza stagione, gli ascolti sono in calo. I vertici della rete devono trovare a tutti i costi un espediente che consenta di risollevare le sorti della produzione. Downey è perfetto per lo scopo. Gli ascolti hanno un'impennata. La storia d'amore tra la protagonista, Ellie, e l'affascinante psichiatra interpretato da Robert Downey Jr. fa battere i cuori di milioni di telespettatori. L'attore sul set è impeccabile. La sua è una recitazione sentita e la parte è così azzeccata che gli vale addirittura un Golden Globe. Ma l'irreprensibilità di Downey come attore non si concilia con le continue intemperanze fuori dal set. Nel novembre del 2000, Downey viene nuovamente fermato in stato confusionale nei pressi di Palm Springs, California. Robert Downey Jr. deve rispondere di due reati, possesso di cocaina e di massicce dosi di tranquillanti. Le accuse sono state formalizzate in seguito al suo arresto durante il weekend della festa del ringraziamento. In caso di condanna, rischia fino a 4 anni di reclusione. I vertici della Fox sono irremovibili. L'esperienza televisiva di Downey si conclude dopo appena 15 episodi. La storia d'amore con Ally McBeal non è l'unica a naufragare. Il matrimonio di Downey con l'attrice Deborah Falconer si conclude dopo 10 anni di difficoltà inframmezzate da un unico, lieto evento. La nascita nel 1993 del figlio indio. C'è un momento in cui inizi a chiederti, dovrei disintossicarmi? Beh, sei un poveretto, hai appena perso il lavoro e tua moglie ti ha lasciato. Magari potresti fare un tentativo. Ma per Downey il tempo della presa di coscienza non è ancora arrivato, anzi, sembra dilatarsi in maniera esponenziale. All'inizio del nuovo millennio l'attore è nella stessa situazione in cui si trovava 10 anni prima. I produttori televisivi e cinematografici hanno completamente perso la fiducia nelle sue capacità. Avrebbe bisogno di un amico, di qualcuno a cui importi veramente della sua situazione, qualcuno come Mel Gibson. L'amico in effetti prova ad aiutarlo. Lo scrittura per una parte nell'Amleto che metterà in scena in teatro a Los Angeles. Lo stesso Downey in una recente intervista ha affermato: il mio amico Mel Gibson mi ha teso una mano pietosa dozzine di volte, ricevendo in cambio da me solo morsi. L'amicizia è fatta anche di questo. Significa continuare a offrire una mano anche quando in cambio si hanno solo dei no. Mel Gibson sorride e porge l'altra guancia. Sa bene che il momento della svolta arriverà, prima o poi. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Destini incrociati. All'inizio del nuovo millennio, due amici, Mel Gibson e Robert Downey Jr., percorrono un tratto di strada attraverso le insidie dell'universo hollywoodiano, fatto di opportunità, ma anche di atroci tentazioni. Le loro carriere hanno attraversato nel bene e nel male gli ultimi 15 anni di storia del cinema. Gibson, con Braveheart, ha già lasciato il segno. Downey non ha ancora avuto modo di provare davvero il suo valore. Ha preferito annegare il suo talento nell'oceano della perdizione. Uno ha più consapevolezza ed è già proiettato verso l'ora del riscatto definitivo. L'altro si dimena ancora tra le fiamme del suo inferno personale. Robert Downey Jr. ha vissuto il fatidico passaggio dal secondo al terzo millennio in carcere. Un bello smacco per un dichiarato amante della libertà in tutte le sue forme. Nonostante abbia ormai 35 anni, l'attore non ha ancora imparato che la libertà, se si vive dalle parti di Hollywood, può facilmente rivelarsi un'arma pericolosa. La metafora è dello stesso Downey. È come se avessi una pistola in bocca. Ho il dito sul grilletto e adoro il gusto freddo del metallo. Per Gibson, invece, vita e carriera procedono per il meglio. Mentre accarezza l'idea del suo film definitivo, La Passione di Cristo, Mel si dedica a progetti minori. È per questo che si trova in teatro a Los Angeles, dove intende mettere in scena l'Amleto. Ha contattato il suo amico Robert Downey Jr. per affidargli una parte nello spettacolo. L'intento è tirarlo fuori dai guai dandogli la possibilità di lavorare. Downey è afflitto dai soliti problemi personali e da solo non è in grado di uscirne. Ma il progetto a cui Gibson vuole coinvolgerlo è destinato al naufragio, proprio a causa dell'ennesima bravata dell'amico. Downey viene arrestato nuovamente e non può partecipare alle prove. È facile farsi prendere dallo sconforto quando tutto sembra insormontabile. L'episodio dell'Amleto non fa che avallare l'atteggiamento ostile dei produttori di Hollywood nei confronti di Downey. L'ostilità non è tanto legata a giudizi e pregiudizi sull'attore, è più una mera questione pratica e finanziaria. Nessuno a Hollywood è più disposto a pagare la copertura assicurativa necessaria a scritturare l'attore in un film. Visti i precedenti di Downey e i rischi in termini produttivi che il suo comportamento può causare, il premio dell'assicurazione è altissimo. Le poche major che potrebbero permetterselo non sono intenzionate a correre un simile pericolo. Downey è in un vicolo cieco. L'ultima volta mi sono detto che non potevo continuare così. Ho cercato aiuto e l'ho trovato. Si può sempre trovare aiuto. Downey sa a chi chiederlo. Mel Gibson è il suo migliore amico, l'unico che non gli volterà mai le spalle. Nel 2003 Mel Gibson prende in mano la situazione. offre di pagare di tasca sua la copertura assicurativa che consente a Robert Downey Jr. di recitare nel musical The Singing Detective. Senza l'aiuto di Gibson, Downey non avrebbe mai ottenuto la parte. La sua è una buona interpretazione e l'attore ha anche modo di mettere in risalto un suo talento nascosto, quello per il canto. I was just sort of singing. You were what? Many a tear has to fall, but it's all in the game. La buona performance in The Singing Detective riapre a Downey le porte di Hollywood. L'attore viene immediatamente scritturato come protagonista maschile nel thriller Gothica. Sul set arriva anche l'amore. Downey incontra la produttrice Susan Levin e insieme a lei scrive la parola fine sulle vicissitudini che avevano portato al tracollo del precedente matrimonio. I'm really grateful. Io sono davvero grato, non c'è altro da dire. Certe volte mi dimentico di esserlo e mi comporto come se le cose si fossero semplicemente aggiustate da sole e gli altri mi dovessero qualcosa. E sotto questo atteggiamento forse è nascosta la paura di perdere quello che ho. Comunque, finché terrò i piedi per terra, andrà tutto bene. Un nuovo amore e un nuovo slancio alla carriera. Robert Downey Jr. non potrebbe essere più entusiasta. I ruoli che gli vengono proposti lo riempiono d'orgoglio perché gli vengono offerti da grandi nomi del cinema. Nel 2005 è la volta di George Clooney, che lo vuole in Good Night and Good Luck, mentre nel 2007 tocca a David Fincher e al suo inquietante thriller Zodiac, dove Downey interpreta un coraggioso giornalista. Salve, sono Paul Avery del San Francisco Chronicle. Chiamo a proposito di una lettera che abbiamo ricevuto. Downey è riuscito a superare i suoi limiti. Il calvario personale è stato lungo e doloroso, ma alla fine il percorso di maturazione ha dato i suoi frutti. Non finirà mai di ringraziare il suo più caro amico per avergli data la possibilità di svoltare, di convertire le sue energie in maniera positiva, anziché impiegarle per autodistruggersi. Incalzato da Oprah Winfrey nel suo The Oprah Winfrey Show, Downey non può che ammettere candidamente tutta la sua gratitudine. Mel Gibson ha avuto un grosso ruolo nella tua vita? Ah, sì. È una persona che ha una fede incrollabile nelle sue convinzioni, in Dio e nei suoi valori. Anche a lui è capitato di infilarsi in situazioni piuttosto tumultuose. Lo ha sempre fatto, in qualche modo, per esprimere se stesso. Questo mi ha dato forza. Mi ha dato la certezza che avrei sempre potuto guardare a lui e imparare qualcosa. E questa spinta ha funzionato. Mel Gibson, intanto, ha portato a compimento il suo sogno, mettere in scena la grandiosità, il dramma, la potenza della vicenda della morte e resurrezione di Cristo. Il film esce nel 2004 e diventa immediatamente un caso. Le sale sono gremite, nonostante il film sia in aramaico sottotitolato. La storia di Cristo non ha quasi bisogno di parole per Gibson, è semplicemente una perfetta metafora dell'esistenza che si ripete continuamente attraverso i secoli. Le persone di questo tipo ricorrono lungo la storia, in ogni epoca, in ogni nazione. È il genere di persone che hanno la forza, il carattere per affermare che una fede, uno scopo, è più importante persino delle loro vite. Non avevo intenzione di rendere la mia vita pubblica e privata e la mia carriera così difficili. Continuo a credere che tutto sia successo per, non so, uno scopo più grande. Il 2008 è l'anno di Iron Man. Film che certamente rappresenta la consacrazione definitiva per Robert Downey Jr. È curioso fermarsi a pensare che senza The Passion e senza il frenetico intrecciarsi delle trame del destino, Iron Man non sarebbe mai potuto esistere. Presentato Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23 qui su Radio 24.